Con Roberto Orazzi, regista del documentario Dentro Fuori, che sarà presentato a Roma all'Apollo 11 giovedì 10 gennaio 2019. Roberto, ben trovato. Ciao, ben trovato anche a te. Ce lo presenti? Dentro fuori è, diciamo, racconta delle storie nell'ambito del disagio mentale, nel senso che questa comunità che opera da più di 30 anni si trova a Capena, in realtà anche altre strutture anche a Roma, la comunità si chiama Reverie. Diciamo io ci sono arrivato tramite un collega, un amico attore che sono circa 15 anni che fa dei laboratori di espressione teatrale e mi aveva sempre parlato di questo suo lavoro molto affascinante, per cui poi a un certo punto lo scorso anno si è un po' concretizzata. Diciamo questa idea di raccontare, perché poi non è semplice entrare in queste situazioni, un po' perché chiaramente c'è sempre un po' il timore da parte della struttura, della comunità di esporre, no? Diciamo quelli che sono adesso, diciamo, tecnicamente pazienti, ma poi in realtà dopo questa esperienza è complicato chiamarli pazienti, sembra molto riduttivo. E quindi, diciamo, mi sono addentrato anche con tanti dubbi, perché sai, in queste situazioni effettivamente poi ti rimane un po' addosso questa sensazione di stai, diciamo, che ci stai intromettendo, però poi in realtà non è così, perché le storie sono estremamente profonde, affascinanti, dolorose, chiaramente, però è un dolore che secondo me ha un grosso sapore di vittoria, che poi è un po' questo, perché poi alla fine è un processo lungo e molti di loro riescono a trovare un equilibrio per poi trovare la forza, ecco, di continuare a esistere. Come ti sei avvicinato a queste storie? La cosa affascinante è questa, parto dal budget, se sembrerà troppo concreto la cosa, però parto dal budget. Un budget è praticamente irrisorio perché ha finanziato la comunità, che quindi non sono attenti a questo tipo di situazioni, però diciamo il budget è molto irrisorio, per cui che significa questo? Significa che ero chiaramente soltanto io, la troupe era composta da me, che ha sempre un valore poi secondo me nella realizzazione finale. E quindi diciamo è stato un vis-à-vis continuo, e quindi piano piano avere la fiducia da parte dei protagonisti, perché per loro mi sono reso conto sin da subito che era un atto estremamente importante quello di raccontarci, perché poi il percorso del disagio mentale è sempre molto nascosto. E che ne vogliamo dire, anche se siamo appunto nella società della comunicazione, dove tutti conoscono tutto, invece in realtà questo tema è ancora molto nascosto, c'è ancora, rimane lo stigma, non c'è niente da fare. E quindi io ho dovuto superare questo, ho dovuto superare anche il mio, se vuoi, di stigma, no? Nell'avere paura di avvicinarmi. E allora questo ha creato quindi uno stile, diciamo, basato sull'osservazione. Sull'osservazione e le loro storie, quindi proprio la loro storia personale di vita, di malattia e anche quello che sono poi le aspirazioni, no? Di ognuno hanno fatto parte, poi hanno creato la struttura narrativa. Che impressioni hai ricavato da questa esperienza? Sai, il documentario, tu che te ne occupi tanto, no? Che ci segui, a noi autori, che abbiamo scelto poi no? Sì. Questo modo di raccontare, sono su molteplici piani. Io per assurdo è come se paragonassi diciamo questo tema un po' al tema dei migranti, no? Cioè, quello che sta affrontando il nostro paese. In realtà anche loro sono un po' dei migranti, nel senso che poi sono costretti a essere, tra virgolette, un po' per questioni terapeutiche, diciamo, sono a essere relegati, un po' nascosti, e poi a un certo punto hanno bisogno di essere reinseriti nella società. Quindi io quello che ho vissuto è un'esperienza di grande vittoria. Grande vittoria perché? Perché poi alla fine c'è tutta questa parte, no, di esseri umani che in realtà chiedono di essere reinseriti, che sembra banale dirlo, no? Sembra così. E invece poi è un tema estremamente complesso, un tema estremamente profondo. E tra l'altro io ho girato questo film a Capena, perché questa comunità si trova a Capena, noi stiamo parlando di un paesino vicino Roma, che potrebbe anche essere nominata l'eccellenza, no? Perché? Perché poi in realtà loro nel tessuto sociale sono assolutamente inseriti, cioè nel senso, non è che qualcuno li indica, no? O che dice, fa o strizza l'occhiolino quando loro passano, perché vivono il paese come tutti quanti. Quindi da questo punto di vista è una grande esperienza umana, sì, assolutamente sì. Che percorso sta facendo il tuo lavoro? Come al solito ci troviamo sempre con le solite difficoltà, se le dico. Cioè nel senso, io ho tentato di entrare in alcuni festival che non fossero, diciamo, di settore, sì. Cioè che fossero soltanto di questo tema. Sono riuscito soltanto con il Festival di Napoli, dove in realtà hanno riconosciuto il valore del film, infatti ci hanno dato una menzione, e questo è successo adesso a dicembre. E adesso sto cercando di convincere anche la struttura stessa, che ha ancora qualche riserva, no? Di portare questo film a conoscenza, portare il tema, insomma, di allargarlo, di aprire un po' con lo spirito basagliano, se poi vogliamo dircela, no? Cioè quello di aprire le porte. E quindi adesso il tentativo sarà quello di organizzare una serie di proiezioni in tutta Italia, in alcune sale per sé, cercando sempre di proteggere, no? Il film, sì. Questo va protetto. E allora ricordiamo l'appuntamento con la proiezione a Roma, all'Apollo 11, giovedì 10 gennaio, Dentro o Fuori. Un saluto e un ringraziamento al regista Roberto Orazzi. Roberto, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie come sempre. Ciao.